Ok, mancano pochissimi giorni a Natale e forse per i regali siete già organizzati, a meno che siate come Elio e le Storie Tese, che in quella simpaticissima canzone dicevano di ridursi al 24 sera 19:29 mentre il negoziante stava chiudendo. Ma anche se siete di quelli invece super organizzatissimi, ossessivi, compulsivi riguardo ai regali, che al primo di dicembre avete già non soltanto pensato a cosa regalare, ma avete già anche comprato, impacchettato, etichettato, lasciato lì pronto per consegnare. Anche se siete di quelli, quest'anno potete aggiungere un regalo sotto l'albero, un regalo simpaticissimo, un regalo gradevolissimo, un regalo di effetto, sia per chi lo riceverà, sia anche per voi che lo fate. E in più è un regalo a costo zero. Di cosa si tratta? Avete presente quando da bambini chiedevamo una cosa, l'ottenevamo e poi un adulto, magari i nostri genitori, ci dicevano come si dice? E allora noi, in modo un pochino meccanico, svogliato, anche scocciato, dicevamo grazie. Chissà quante volte anche noi abbiamo invitato i nostri bambini oppure i nostri figli a fare lo stesso. Ma ci possiamo chiedere, siamo veramente capaci da adulti a dire grazie? In un video di qualche settimana fa vi parlavo di 5 benefici della gratitudine. Oggi vi vorrei parlare di un esercizio molto simpatico che ha sempre a che fare con la gratitudine, ma questa volta rivolta verso gli altri. Questo esercizio di gratitudine me l'ha suggerito un video molto toccante che ho visto qualche giorno fa. Vi lascio il link in descrizione. Ad alcune persone è stato chiesto di scrivere una lettera rivolta a qualche persona della loro vita per la quale queste persone sentivano una profonda gratitudine, persone che hanno lasciato un segno nella loro vita. Ma le persone a cui è stato chiesto di scrivere questa lettera sono rimaste molto colpite quando gli è stato chiesto anche di tirare sul telefono, chiamare queste persone seduta stante per leggere loro questa lettera di gratitudine rivolta a loro. È molto commovente vedere le reazioni a questa telefonata. Le reazioni di chi? Certo, delle persone che hanno ricevuto la telefonata, ma anche le reazioni, le risposte emotive della persona che ha fatto quella telefonata. Le persone si mettevano a piangere, si commuovevano le persone che ricevevano la telefonata, ma anche le persone che la facevano, perché l'esprimere gratitudine smuove qualcosa dentro di noi, ci rende più consapevoli di tutto quello che abbiamo ricevuto, e questo crea, causa a noi un benessere molto bello, molto profondo. Avrai capito l'esercizio che oggi voglio suggerirti. Prova a pensare ad una persona o anche a più persone per le quali tu provi una profonda gratitudine e mettiti a scrivere una lettera nei suoi confronti, una lettera in cui vuoi ringraziarla, vuoi dirgli grazie perché è stata importante per la tua vita, perché la tua vita sarebbe stata diversa se non l'avessi incontrata e conosciuta. Ma non limitarti a questo, prova ad entrare nel dettaglio, prova a scrivere qualcosa di concreto che questa persona ti ha insegnato, ti ha trasmesso, ti ha detto. Magari scrivi anche di qualche episodio della tua vita che è stato particolarmente importante proprio perché a fianco a te avevi questa persona che ti ha dato tutto questo. Scrivi tutto questo, poi telefona a quella persona, dille che vuoi incontrarti con lei. Ok, magari non riuscirete a farlo prima di Natale perché ormai mancano pochissime ore, non importa, fallo anche dopo. E poi vedetevi, e poi raccontale tutto questo, leggile a voce alta la lettera, o magari non ne sentirai neanche il bisogno di portarla con te, le dirai semplicemente tutto questo. Ma credo che sia invece molto bello portarle proprio questa lettera, e anche se non gliela leggerai, non avrai il bisogno di leggere, poi lasciale questa lettera. Sarà per lei un regalo meraviglioso, ma vedrai quanto il fare tutto questo sarà anche per te un regalo molto profondo che non dimenticherai mai. Sarà emozionante gustarti la reazione che tutto questo produrrà nell'altra persona, ma credo che rimarrai molto stupito anche del profondo senso di benessere che questa cosa porterà a te, alla tua vita, alla tua interiorità. In un video dell'anno scorso immaginavo come in paradiso forse un giorno avremo la possibilità di ringraziarci gli uni gli altri per tutte le cose belle che ci siamo donati. Ma a volte mi chiedo perché dobbiamo aspettare il paradiso. Non possiamo già fare adesso qualcosa che ci potrà veramente far sentire già in paradiso? Fallo anche a me un regalo di Natale, dai, iscriviti subito al canale e attiva la campanella, oppure vai su comunicaresorrisodidio.it, sezione iscriviti e lascia il tuo indirizzo email per ricevere tutti gli aggiornamenti, tutte le novità che ogni settimana arrivano con i nuovi video.